oggi inizierei dandovi il benvenuto, ringraziando il nostro gentile pubblico di essere qui con noi per questa nostra serata e ringraziando soprattutto anche i nostri ospiti. Questa sera abbiamo con noi appunto il professor Di Lazzaro, che è l'autore del libro Da Galilea ad Einstein, vedete la copertina alle nostre spalle, e ringrazio anche il dottor Guido Rispoli, procuratore capo di Campobasso, che è venuto fin qui a Bolzano, è tornato qui da noi, e lo ringraziamo per accompagnarci in questa serata. La presentazione di questo libro e poi il dibattito che si scatenerà, speriamo, in seguito alle teorie e a quanto ci verrà illustrato dai nostri ospiti, si inserisce all'interno di una rassegna pensata e voluta insieme all'intendenza scolastica. È stata chiamata Caffè Lumière proprio per un taglio più scientifico e di riflessione, che vuole offrire dei nuovi spunti anche di lettura al pubblico, dei nuovi percorsi, utilizzando anche i libri che abbiamo in biblioteca. Ricordo che siamo appunto sempre qui al Centro Trevi da un anno, soprattutto al piano terra, ecco, occupiamo questi nuovi spazi, e quindi le iniziative che si susseguono quasi giornalmente, perché questa settimana abbiamo veramente fatto il botto, questa è la quarta serata di fila che creiamo degli incontri con gli autori e le autrici, sono tutti finalizzati sempre a promuovere la lettura e in particolare la curiosità dei percorsi nuovi per ciascuno di noi, nella convinzione che la biblioteca debba essere attiva, creare incontri e scambi di idee e soprattutto delle nuove occasioni e visioni di costruirsi un percorso personale all'insegna della libertà. Ecco, io proprio per questo motivo vi darei anche degli altri suggerimenti. Sulle sedie abbiamo lasciato il programma del Caffè Lumière con i prossimi incontri. La prossima settimana ci troveremo qui lunedì alle ore 18 per presentare il libro di Wolfraud De Concini insieme a Bruna Maria Dalla Goveneri. Il titolo è Le scarpe di Clara e parla di una boema che è stata rinchiusa in un campo di concentramento, ed è una storia romanzata ma comunque che è parte da un'esperienza purtroppo vera. Infine, martedì 16 ottobre alle ore 17 nella nostra sala giù al piano terra della biblioteca ci sarà un incontro dedicato alle fake news con Marco Pugliese. Siete tutti cordialmente invitati, vi ringrazio e segnalo anche la vetrina che costruiamo sempre, anche perché lo stesso nostro ospite Guido Rispoli è autore a sua volta di libri, e quindi ci siamo procurati dei libri, purtroppo non ne abbiamo potuto mettere tutti a disposizione perché un paio sono già usciti in prestito, però ricordo i titoli: Indagine sull'eternità e poi La bellezza, la legge e Dio. A voi la parola e grazie a tutti. Grazie. Ci sediamo, sì, solo due parole per l'introduzione. Allora, buonasera a tutti, grazie dell'invito e grazie soprattutto al professor Di Lazzaro che mi ha chiesto, diciamo, di essere interlocutore in questa serata. Peraltro credo che i miei interventi saranno molto brevi perché ci siamo riproposti, abbiamo fatto una serie di incontri prima di questa presentazione, diciamo, per discutere della presentazione stessa, e ci saremmo riproposti il professor Di Lazzaro vi illustrerà tutta una serie di cose che ora vi dirà di grande importanza. Due parole solo: la conoscenza e l'amicizia del professor Di Lazzaro a me risale da tanti anni, perché io sono un appassionato tennista e quando ho cominciato a giocare a tennis il professor Di Lazzaro era di gran lunga il più forte giocatore di Merano. Poi, finito di vincere, che è la verità, il citone sociale e tutto, finito di vincere le partite di tennis, eravamo tutti affascinati, il mio gruppo, ormai siamo invecchiati tutti, lui e anch'io, però il gruppo di amici, andava dentro, giocava a scacchi, batteva tutti a scacchi, perché era anche bravissimo giocatore a scacchi. Poi maestro di esperto di informatico, ho fatto anche un corso con lui, diciamo, post universitario, e poi appunto anch'io negli anni mi sono un po' appassionato dei temi della filosofia, della teologia, che secondo me richiedono qualche conoscenza di fisica, anche se naturalmente io sono da scuola elementare, e di qui quando mi ha omaggiato di questo bellissimo libro e soprattutto mi ha chiesto di fare da interlocutore, l'ho accettato di buon grado. Detto questo come quadro, ora andiamo a parlare del libro Da Galilea ad Einstein, sviluppo ed evoluzione della fisica, del professor Di Lazzaro, è un libro che poi trovate anche all'entrata in vendita. Voglio dire una cosa, perché in genere quando, per chi non è esperto di materie scientifiche come non lo sono io, e si prende un libro e si vedono all'interno una serie di equazioni o di formule matematiche, si è preso ogni tanto dallo spavento, dall'incertezza. Sarebbe, ecco, o è un sentimento sicuramente sbagliato nei confronti di questo libro, perché nel libro c'è una esposizione, diciamo, di quelli che sono gli approdi della scienza da Galilei ad Einstein, anche di tipo discorsivo. Poi, per chi è in grado e chi vuole cimentarsi anche con la dimostrazione matematica, trova anche le spiegazioni di questo genere. Allora, io ho concluso la mia introduzione. La prima domanda, credo quella banale, ma che un po' tutti si pongono la domanda quando vanno alla presentazione del libro: Gabriele, se ci dici come nasce questo libro, perché è stato strutturato in questo modo, perché da Galilei ad Einstein, quando sappiamo che il percorso, diciamo, del sapere c'è anche prima di Einstein, ecco un po' un inquadro, un'introduzione del libro. Grazie. Io ringrazio l'amico Rispoli, che conosco, da, come già detto lui, da tantissimo tempo, per altri motivi, non per questioni di fisica. È stato fin troppo generoso nei miei confronti, non è tutto vero quello che ha detto circa il tennis, però adesso, dire la verità, non mi fido neanche più molto di chiedere di giocare una partita, perché non vinco mai, vinco sempre lui. Ha sfrutto il fattore anni adesso. Va bene, va bene. Allora, per il libro, mi hai chiesto per quale motivo ho scritto questo libro. Si sente l'audio, tra l'altro? Dicendolo vicino. Vicino, sì. Il motivo, devo dire la verità, me lo sono chiesto anch'io moltissime volte e una risposta ancora non l'ho trovata. O forse, diciamo così, che la colpa forse è della fisica, perché in fisica c'è un principio, come tu sai bene, che si chiama principio di inerzia. Questo principio, trasferito nella vita di tutti i giorni, direbbe in sostanza questo: che quando uno comincia a fare qualche cosa, poi automaticamente ha la tendenza di continuare a fare. E questo è stato un guaio, perché 2 anni fa circa avevo scritto degli articoli su Facebook di carattere scientifico, e degli amici che l'hanno visto, a un certo momento, una quarantina così più o meno di articoli, e beh, mi mandano un messaggio. Tra l'altro era uno scacchista, non era neanche uno che, a cui interessava tanto, sì, interessava la fisica perché si riteggeva, e mi dice: ma senti, ma perché non li raccogli in un libretto, che allora sarebbe di più facile consultazione, perché altrimenti sparsi qua e là su internet si fa un po' di fatica ad andare a pescare quello che interessa. E io gli ho risposto: ma ti puoi immaginare se io adesso ero già fuori dalla scuola, mi metto a scrivere dei libri di fisica, e ormai ho anche un po' abbandonato diciamo la fisica in sé, perché mi è sempre interessata, però fuori dall'ambiente della scuola mi metto a scrivere un libro. E gli ho risposto in questi termini: come è andata a finire? Che 4-5 giorni dopo ero al computer, stavo già riformatando tutto quello che avevo scritto in formato A4 su Facebook, perché per la stampa non va bene quel formato, ci vuole 17-24, l'ho fatto in 17-24, ed è venuto fuori il primo libro, in cui ho parlato di varie cose, di fisica, di astronomia, di un po' di matematica, statistica, curiosità scientifiche, e alla fine è venuto fuori una miscellanea dal titolo Questioni di fisica, astronomia e curiosità scientifiche. Dopo di quello si vede che per colpa di Galileo Galilei, per inerzia, pian piano mi sono messo a scrivere quest'altro. Ma immagino che non ce ne sarà un terzo, state tranquilli, non vi assiderò con un terzo libro. Va bene, possiamo andare, sì, allora, possiamo cominciare al contenuto. Al contenuto. Intanto volevo giustificare il titolo: da Galilei ad Einstein, sviluppo ed evoluzione della fisica. Perché da Galilei ad Einstein? Bene, da Galilei perché credo che lo sappiano un po' tutti quanti, la scienza e quindi anche la fisica, si dice, ma in effetti è così, comincia praticamente con Galileo Galilei, perché Galileo Galilei introduce il metodo scientifico. che in sostanza fa riferimento alle prove sperimentali. E dopo, perché ad Einstein, fino ad Einstein? Beh, perché Einstein è vissuto a cavallo tra il XIX e il XX secolo, è nato nel 1879, morto nel 1955, e proprio in quel periodo, diciamo che è nata e si è sviluppata la fisica moderna, con le tre grandi teorie: relatività speciale, relatività generale e meccanica quantistica. Oltretutto, Einstein diciamo che è stato presente in tutte e tre queste teorie, ma non presente perché è vissuto in quel tempo. La relatività speciale l'ha scritta lui, la generale l'ha scritta lui, e la meccanica quantistica diciamo che ci ha partecipato pesantemente. Addirittura ha avuto un premio Nobel perché ha interpretato l'effetto fotoelettrico, che è un effetto quantistico. E il Nobel gliel'hanno dato nel 1921, lui l'aveva scritto nel 1905, ma come spesso succede, premi Nobel si danno molto tempo dopo, diciamo così, le scoperte, anche perché si vuole essere sicuri che la nuova teoria o quello anche recentemente, questi ultimi che sono stati assegnati poco tempo fa, rispondono veramente a dei fatti reali, cioè che ci sia un controllo, che effettivamente la scoperta ha dei riscontri. E va bene, per Einstein ci sono voluti 15 anni, però penso che sia un riconoscimento giusto. E adesso il libro. Da Galilei ad Einstein ci sono 350 anni di storia della fisica, perché dal 1600 fino a circa, ho detto, 1950. E come impostare il lavoro? Cioè, è chiaro che avrei dovuto fare delle scelte. E allora ho pensato che in questo periodo ci potevano vedere cinque almeno momenti importanti: la nascita della fisica con Galileo Galilei, ovviamente, e il passaggio a Newton, perché con Newton c'è stato un allargamento dai fenomeni, diciamo, chiamiamoli, sulla superficie terrestre, ai fenomeni che avvengono nello spazio, nell'universo, e quello è stato un passaggio molto importante. E poi alla fine dell'Ottocento la nascita della fisica moderna con quelle tre teorie che ho ricordato prima, e quindi in pratica avevo davanti cinque momenti da sviluppare. Allora avevo pensato cinque momenti, cinque capitoli. Me la sarei cavata quando ho cominciato questo lavoro, anche abbastanza rapidamente. Non so se voi notate lo spessore, i cinque capitoli, ma devo tenerlo proprio vicino, sono diventati praticamente 10. Per quale ragione? Perché che cosa volevo fare? Non volevo scrivere un raccontino, diciamo, all'acqua di rose. Mi interessava anche fare degli approfondimenti, e per fare gli approfondimenti purtroppo ci vogliono delle conoscenze anche in altri campi della fisica, e così ci ho dovuto inserire un allargamento della meccanica, un po' di termologia, di ottica e soprattutto alla fine elettricità e magnetismo, che erano indispensabili proprio anche per quelle teorie di fisica moderna di cui ho parlato prima. Bene, quindi questo è stato diciamo il motivo per cui ho dovuto allargare il discorso e passare da 5 capitoli a 10 capitoli, è stato un lavoro abbastanza consistente. E ora anche una domanda che mi sono posto: in questo sviluppo ed evoluzione della fisica di 3 secoli e mezzo, che cosa è stata l'evoluzione della fisica? Ci sono stati dei cambiamenti? Di che tipo? Dei cambiamenti, diciamo, nella continuità di pensiero? Oppure questi cambiamenti alle volte sono stati anche degli scossoni che hanno fatto traballare tutto l'impianto della fisica classica? C'è stato un po' dell'uno e un po' dell'altro. E chiaramente adesso io non vi dico subito qual è la posizione giusta che uno deve tenere, perché alla fine della carrellata che speriamo di riuscire a fare da Galilei fino ad Einstein si capirà più o meno qual è il giusto punto di vista che si deve avere nei confronti di questa evoluzione, perché si sente spesso dire anche in giro ma sì, prima la fisica classica sembrava che avesse risolto tutti i problemi, poi invece no, non va bene, ci vuole la relatività speciale perché la fisica classica non riesce a spiegare tutti i fenomeni che si sono poi incontrati, e poi neanche la realtà sociale va bene, ci vuole la realtà generale, insomma tutta questa cosa, poi anche la meccanica quantistica non è proprio così, perché i denigratori che ci sono della scienza con questo discorso tendono a smontare la validità del pensiero scientifico. Ma risponderà poi Einstein, che lo leggerò alla fine, sono solo due righe, su quello che deve essere il punto di vista corretto riguardo all'evoluzione della fisica. Non è vero che questi scossoni hanno prodotto dei terremoti, ci sono state ovviamente delle cose che vanno un pochettino riviste, però vedremo magari alla fine qual è Posso dire solo una cosa? Questo è giusto dire che, perché spesso io quando vedo non appassionati dice vabbè la meccanica quantistica, la relatività, però tutta la nostra moderna società, informatica, internet, GPS, le tecnologie mediche, tutte basano su queste, se non sbaglio, su queste sviluppo della fisica di questi 350 anni da Galilei ad Einstein. Quindi non è che stiamo parlando del sesso degli angeli, di argomenti iperspecialistici, cioè la nostra società, se non ci fossero state queste scoperte, saremmo una completamente diversa. Indubbiamente, a parte tutte le applicazioni che ci sono avute anche in campo ospedaliero, basta entrare in qualunque ospedale di un certo livello, c'è un reparto che si chiama medicina nucleare. Medicina nucleare, saltano fuori tutti questi fenomeni che si sono studiati, che si sono scoperti nel corso degli anni, a partire dal 1900 in avanti. Per non parlare, come diceva anche Guido, di altre applicazioni, se pensiamo semplicemente al navigatore, ma del navigatore però abbiamo una slide da cui si vede che cosa succederebbe ad un navigatore, quelli che usiamo nelle macchine o i nostri telefonini, non so anche, se non tenessimo conto degli effetti relativistici, perché gli orologi fanno dei brutti scherzi a seconda che siano messi su sistemi di riferimento, chiamiamoli così, in movimento rispetto a un altro, e a seconda anche della quota a cui si trovano rispetto alla superficie terrestre. Va bene. Ma qui c'è una slide apposta, spero che possiamo arrivarci. Allora potremmo partire appunto da Galilei e poi anche dire, magari se lo ritieni, due parole, se tutto quello che c'è prima di Galilei è da buttare via, cioè qual è la grande novità di Galilei, il metodo scientifico che hai accennato, e poi se tutto quello che c'è prima è qualcosa che non vale nulla, o in realtà anche prima il pensiero umano. Giustissima osservazione. Adesso parlando, prima ci eravamo messi un po' d'accordo cosa si riuscirà a fare in questo poco tempo che abbiamo a disposizione, e allora ci siamo orientati a dire cerchiamo di andare sulle tre teorie fondamentali di fisica moderna, chiamiamola così, relatività speciale, generale, meccanica quantistica, e almeno riuscire a mostrare per quale ragione queste teorie si sono dovute costruire, perché sono nate. Avevo bisogno della relatività speciale, generale, meccanica quantistica, un problema, e se ci sarà ancora un po' di tempo ancora vedere qualche caratteristica particolare di queste teorie. Non sarà molto facile, anche perché questa è la dottoressa Trevisan, che non è molto contenta che si vada fino alle 19:58. Ah, benissimo. Non so se loro saranno d'accordo. Comunque lo vediamo, il pubblico se regge, lo vedremo. Va bene. Quindi adesso Galileo, come giustamente diceva Guido, e che cosa c'è stato prima? Galileo Galilei introduce il metodo scientifico. Però voglio rubare 3-4 minuti e tu mi dovrai interrompere se io mi dilungo un po' troppo a dire in che cosa consiste il metodo scientifico, perché tutte le volte che si fanno dei discorsi di fisica in qualunque campo, ho visto anche diversi video su internet ad esempio, si dà sempre per scontato che la gente debba conoscere i fondamenti, chiamiamole così, della fisica, cioè che cosa fa sta fisica, come lavora, eccetera, in cosa consiste il metodo scientifico. Io non sono proprio così sicuro che questo sia così scontato, diciamo, no? Allora adesso già metto le mani avanti, mi scuso con quelli che provengono o per curriculum scolastico oppure per attività lavorativa da ambienti scientifici che queste cose le sanno, ma forse non le sanno tutti quanti. Allora dopo due parole, cercando di essere molto conciso, vorrò dire anche su cosa è questo metodo scientifico, in cosa consiste. Ma vengo alla domanda di Guido. Attenzione al cavo, e per questo ci abbiamo pure dopo un slide. Sì. E andiamo a prendere. Questo è un grande fascino, era tosta. Qui Guido diceva, ma quello che è stato prima del metodo scientifico, cosa ne facciamo? È da buttare via, perché sembra che adesso conti solamente la scienza, quindi solamente da Galileo Galilei in avanti, ma quello che c'è stato prima, tutto sbagliato? No, non è tutto sbagliato. Prima di vedere questa slide vorrei dire due cose in che cosa consisteva prima di Galileo Galilei il sapere. Beh, il sapere era praticamente nelle mani dei filosofi. Nel 1600 si risentiva ancora moltissimo dell'influenza dei filosofi greci, Platone, Socrate, Aristotele e compagnia bella. Quindi quando sono arrivati Galileo e i compagni hanno dovuto un po' anche combattere con quello che era la cultura dominante all'epoca. E vorrei proprio riprendere che cosa ad esempio pensavano i filosofi a proposito di una grandezza che poi è diventata una grandezza fisica, il tempo, e che definizione ha dato Platone del tempo, che definizione ha dato Aristotele, una cosa molto breve, e che cosa poi pensa invece la fisica di oggi del tempo. Allora vi dico quella di Aristotele, filosofo, no, di Platone, e poi mi direte, me la faccio spiegare da voi perché non l'ho capita troppo. Allora, il tempo è l'immagine mobile dell'eternità. Ve la ripeto, il tempo è l'immagine mobile dell'eternità, cioè Platone vede come se l'eternità presente, passato, futuro, che è lì, e dopo c'è l'immagine sua dell'eternità e se ne va, cammina, e quello sarebbe il nostro tempo. Voi dovete capire, lei ha capito questa definizione che ha dato Platone? Un tempo senza fine. No, ma che cosa vuol dire che c'è questa eternità così? Lui ha scritto un libro sull'eternità di Valenta, qui l'indagine sull'eternità. No, diciamo così che è una definizione che può avere anche il suo fascino, se vogliamo. Io non la capisco, vi dico francamente. Ma una cosa so, che con una definizione di questo tipo non si fanno partire i treni e neanche gli aerei. Questo è sicuro. E va bene, però Platone ha detto così, e teniamocela. Aristotele ci ha visto meglio, un passo diciamo avanti verso quello che è la definizione che poi ha dato anche la fisica del tempo. E Aristotele ha avuto, diciamo, la grande idea di coinvolgere nel tempo anche lo spazio. Aristotele dice sì. Il tempo è la misura di due momenti successivi di un movimento. Ah. adesso cominciamo a ragionare. Perché se avessi ancora aggiunto che è la differenza di due misure, di due istanti di tempo, di qualcosa che si muove, allora quella è la definizione che proprio si usa anche in fisica per intervallo di tempo. Ma diciamo che si è avvicinato abbastanza. E qui siamo nel IV secolo avanti Cristo. E adesso vi vorrei solamente dire, e poi passiamo veramente a lei, che cosa hanno detto invece i padri della Chiesa, uno dei padri della Chiesa, Sant'Agostino. Sant'Agostino, bellissimo, non dà una definizione di tempo. Sant'Agostino fa un'osservazione, perché mi chiedevo, ma padre, che cosa pensa lei che sia il tempo? Il tempo. Lui dava questa risposta, diceva, se non me lo chiedi, so che cos'è, se me lo chiedi non lo so più. Bellissima, no, questa è vero. La più bella non è una definizione, è un'osservazione che fa di tipo psicologico. Sì. Cosa vuol dire? Vuol dire che se tu non me lo chiedi cos'è il tempo, ma io faccio tutte le cose, mi alzo la mattina alle 8, poi alle 10 devo dire le preghiere, a mezzogiorno mangio, alle 5 devo andare dal convento fino alla piazza, so qual è il percorso che devo fare, piego mezz'ora, la sera alle 8 vado a dormire, eccetera, eccetera. E tutto funziona. Ma se tu mi chiedi che cos'è il tempo, caspita, allora mi devo fermare a pensare. Cosa sto facendo? Che cos'è il tempo? E quello è effettivamente non ha una risposta, perché neanche la fisica risponde a questa domanda, che cos'è il tempo. Lo vedremo che cosa dice la fisica a proposito del tempo. Va bene, allora adesso, prima ancora di arrivare a lei, volevo dire due cose su che cos'è il metodo scientifico, e così vediamo anche la definizione del tempo. Dunque, intanto che cosa vuol fare la fisica? La fisica cerca di interpretare, spiegare, se ci riesce, i fenomeni naturali, diciamo così. Va bene, ma com'è che lo fa? Come si muove la fisica per riuscire a svolgere questo compito? E bisogna guardare due cose, e qui andiamo a venire ad un'altra slide. Questa è la pellicola. Questa. Non so se si vede, cerco di ingrandire un po'. Si legge? Sì, sì. Bene. Allora, che cos'è la fisica? Lo dico lì sopra, ve l'ho già detto. E per capire come funziona, cioè quali sono le regole del gioco, in sostanza bisogna considerare come si muove, cosa fa. Bene, qui bisogna guardare due cose. Qual è il materiale con cui lavora e qual è il metodo di lavoro. Il materiale, una brutta parola materiale, l'ho virgolettato perché quando uno dice materiale pensa a un secchio di sabbia, di cemento, che ne so, qualcosa del genere, ma materiale intendevo dire quali sono gli enti su cui lavora la fisica, no? In questo senso. E poi anche, come dicevo, il metodo di lavoro. Allora gli enti in fisica si chiamano grandezze fisiche, e ce ne sono di due tipi: grandezze fondamentali e grandezze derivate. Prendiamo ad esempio la meccanica. In meccanica, per farla semplice, ci sono soltanto tre grandezze fondamentali: lunghezza, massa e tempo. Perché si chiamano fondamentali? Si chiamano fondamentali perché queste grandezze non sono ulteriormente scomponibili in altre più semplici di loro. Se io per esempio dico velocità, la velocità sappiamo, penso tutti, che è l'apporto tra lo spazio percorso e il tempo impiegato per correrlo. Bene, quindi una lunghezza diviso un tempo. E questa si chiama grandezza derivata. Invece lunghezza e tempo e massa, queste tre che ho detto prima, sono grandezze fondamentali, perché queste non si possono scomporre a loro volta in altre più semplici. Va bene, il bello di questo, diciamo, modo di sistemare le cose come si lavora nella fisica, è che con queste tre grandezze si costruiscono tutte le grandezze, e sono veramente tante, della meccanica. Quindi se me ne dici una, io te la scompongo in EAD-MT. Una qualunque grandezza di meccanica, te la dico io. La forza, per esempio. La forza è una massa per un'accelerazione. La massa, l'ho nominata prima, è l'MT, di una delle tre. L'accelerazione è una velocità, alla fine una variazione, cioè diviso un tempo. La velocità è una lunghezza diviso un tempo, allora ritorno a queste tre, lunghezza, massa e tempo. Sempre lì si finisce. Con queste tre grandezze fondamentali si costruisce tutto l'edificio della meccanica. E non è poco, voglio dire, questo è, non so se non ci ha mai fatto caso, ma alla fine si riduce tutto a lunghezza, massa e tempo. Va bene, queste sono le grandezze fondamentali, le grandezze derivate, che ce ne sono un sacco, ho detto prima, la velocità, la forza, la quantità di moto, di punto, ce ne sono un sacco. E per le grandezze fondamentali bisogna aggiungere ancora una cosa, quei punti A, B e C che ho scritto di sopra, perché uno potrebbe dire, va bene, le grandezze derivate sono definite attraverso relazioni matematiche tra grandezze fondamentali, ma le grandezze fondamentali che razza di roba sono? Le grandezze fondamentali sono fondamentali, e perché non si possono scomporre altri principi, ma devono soddisfare quelle tre condizioni. Si deve poter fissare un'unità di misura, si deve poter eseguire operazioni di confronto, non c'è più uguale, si deve poter eseguire operazioni di somma e differenza. Questo taglia subito la testa a toro, come si dice. Se io dico, per esempio, coraggio, odio, amore, amicizia, simpatia, antipatia, nessuna di queste che ho nominato soddisfa a quelle tre condizioni. Ma se dico lunghezza, sì, se dico tempo, sì, se dico massa, sì, se dico velocità, va bene. Allora si fa una scelta di quello che è, proprio quello che è il materiale prima, materiale con cui si può lavorare in fisica. E secondo punto, il metodo di lavoro. Questo lo dice chiaramente Galileo Galilei nel dialogo sopra due massimi sistemi. Possiamo seguire due strade. Si deve arrivare a una relazione finale, o ci arrivo con una dimostrazione matematica e quello che ottengo la chiamo legge, o ci arrivo solo con un esperimento perché non esiste la dimostrazione matematica, e quello lo chiamo principio. Quindi abbiamo queste due cose, le leggi e i principi. Lì nella slide ho scritto, per esempio, S uguale a mezzo di quadro è una legge perché si ricava, si dimostra matematicamente quella l'espressione del moto uniformemente accelerato nello spazio percorso. Sotto F è uguale MA, non si può dimostrare, si fa un esperimento, io penso che si applica una forza ad un corpo accelera e l'accelerazione è proporzionale alla forza, per questa idea faccio una prova, vedo, ah, è vero, la doppia 1 la doppia l'altra, la doppia 1 uguale l'altra, bene, alla fine allora F su A uguale costante, scrivo la costante, la chiamo M, giro questa relazione in F uguale MA secondo il principio della dinamica, e questo è un principio. Bene, in tutto questo che ho detto, perché l'ho fatto? Perché volevo mettere in rilievo che sia con le grandezze fisiche, cioè il materiale con cui si lavora, sia con il metodo di lavoro, quello che entra sempre, dico sempre, è la matematica. Trovate un punto dove non ci sia l'ingresso della matematica lì dentro, non c'è. Quindi nel momento in cui io neanche faccio delle considerazioni sull'accelerazione, la velocità o che ne so, se la nomino soltanto, in quello stesso momento ho fatto intervenire la matematica, perché le grandezze fisiche sono definite attraverso la matematica. Non solo, il modo di lavorarci sopra è ancora matematica. Va bene, questo lo volevo puntare. Infatti si chiama matematica il linguaggio di Dio, cioè, tutto si costruisce, per tutto è diciamo, la matematica è un dato che non si può eliminare per la comprensione del, diciamo. Sì, un linguaggio universale. Linguaggio universale. Va bene, Galileo Galilei. Sì. Allora, andiamo avanti. Cioè, era tosto, ma lo facciamo questo così, non lo so, o no? Secondo me, non lo so, se vogliamo fare quella altri, forse no. Perché abbiamo la realtà speciale, quella generale sarebbe bella la meccanica quantistica. Cioè, va bene, allora come ritiene, cioè, io sto qua anche a lungo, ma non so. No. Io sto qua fino a tonotte, però. Questo è valutato. Va bene, non mi spiego la dimostrazione, vi dico solo come sì. Ci è arrivato e poi andiamo più davanti. Cioè Eratosene, uno dice sì va bene, però prima del periodo scientifico ci sono stati anche dei grandi risultati. Eratosene, diciamo nel 4 secolo avanti Cristo, è riuscito con la sua idea a valutare il raggio terrestre, non so se è poco, e come l'ha fatto? Con un'osservazione semplicissima. Ha vissuto per un certo periodo ad Assuan, quella che oggi è Assuan, e che si trova più o meno lì dove c'è la lettera D. In Egitto. E si accorgeva che quando si trovava al 21 di giugno, solstizio d'estate, un paletto verticale non faceva ombra, che per forza il sole era perpendicolare, così non poteva fare ombra. Poi dopo qualche anno si è trasferito a Alessandria, che è il punto che ho chiamato C, quello lì, e ad Alessandria sono 800 km più a nord. 800 km più a nord le cose cambiano. Quando è arrivato il solstizio d'estate, hai visto che le pareti facevano ombra. Ah, bene. E allora, questa è l'intuizione, diciamo, un po' di dire geniale, però è un'osservazione non da poco. Ha detto, ma allora se quando siamo il 21 giugno e sono ad Alessandria, io mi immagino, quelli sono i raggi del sole che ho disegnato parallelo, mi immagino di prendere un cordino e di andare dall'esterno del paletto D fino al punto A, che è quello lì. Se tiro questo cordino riesco a misurare quell'angolo che ho segnato in nero. Questo angolo è uguale a quello al centro, perché sono terre interne, perché Eratosene conosceva la geometria di Euclide. E allora a quel punto, se conosceva l'angolo al centro, va bene, mi scrivo una proporzione, quella che ho messo di sotto, facilissimo, perché scrive che il rapporto tra un angolo e l'angolo giro deve essere uguale al rapporto tra l'arco, che conoscevo 200 km, e tutta la circonferenza, in cui compariva R, 2π/r. Di tutta quella roba lì, l'unica incognita è R, e risolve, e cosa trova? 6.442 km, che è una buona stima già del raggio terrestre. Oggi noi come raggio terrestre prendiamo 6.370 km. Va bene, è interessante questo. Anche con due paletti a distanza. Con due paletti. Allora, ecco, siamo a Galileo Galilei. Galilei ci interessano per la realtà speciale due cose. Galileo Galilei è importante per due principi, fa parte dell'altro, il principio di inerzia e il principio di relatività galileiano. Quello che ci interessa per la realtà speciale è il principio di relatività. Quello di inerzia l'ho nominato prima parlando del secondo libro, eccetera, lo sapete più o meno. Tutti quanti, se non si applica una forza ad un oggetto, l'oggetto è fermo, continua a rimanere fermo, si muove a velocità costante, mantiene costante la sua velocità e va bene. Quell'altro, che invece è quello che ci interessa più vicino, perché di relatività, dice che se io ho due sistemi di riferimento e movimento uno rispetto all'altro, però moto rettilineo uniforme, quello che succede quello che si muove, chiamiamolo così, non è diverso da quello che capita da quell'altro che è fermo. In poche parole, io non mi posso accorgere su un sistema che si muove di moto rettilineo uniforme se mi sto muovendo, facendo qualche esperimento, faccio cadere una pallina, non lo so, guardo come si muovono i pesciolini in un acquario e ciò il mio sistema che si sta muovendo, non posso vedere nessuna differenza, non posso capire se sono fermo o se sono in movimento, e questo è il principio di relatività di Galileo. Qui ho fatto un esempio. Naturalmente Galileo Galilei non poteva fare l'esempio dei treni perché nel 1600 non c'erano. Ho fatto un esempio bellissimo, ve l'ho riportato nel suo libro, però non ci tengo purtroppo di leggere, del Gran Naviglio, in cui si immagina di stare all'interno di una nave e dire quello che ho detto io, cioè che uno da dentro non si può accorgere se la nave si è ferma o se si è in movimento. Tra parentesi aggiungo che questo lo sperimentiamo tutti i giorni, penso, andando in treno, se appena arrivato col treno, se un treno è fatto bene, non è di 100 anni fa, e la linea ferroviaria è bella dritta, livellata, io sul treno bevo un bicchiere d'acqua, mangio, leggo il giornale, scrivo, come se fossi al bar della stazione, giusto? Quindi è una prova proprio che credo che lei ci abbia visto giusto. Qui per esempio del Gran Naviglio, sarebbe interessante, come dicevo, poterlo leggere. E, in un sistema di riferimento come questo non succede soltanto che un esperimento fatto via la velocità del treno segnato in azzurro, che quello azzurro si muove, quello, l'altro giallo, l'altro treno fermo, uno si muove, l'altro è fermo. E sono due sistemi di riferimento, quello della stazione, la stazione è ferma, e il treno lì violetto, azzurro, come lo devo chiamare, che si muove a velocità costante verso sinistra. Se io per esempio sul treno in movimento faccio cadere una pallina, di sotto c'è la formula, ho scritto, con cui si calcola la velocità di caduta, è questa, t uguale alla radice di 2s fratto gs, sarebbe la stessa con cui faccio cadere, g è l'accelerazione di gravità, l'ho messa lì, 9,8 metri secondo 4, quella, e si può fare conto di quanto sarà il tempo di caduta. 2 per s, se la faccio partire da un metro, fa 2, g 9,8 diciamo 10, 2 decimi, 0,2, radice di 0,2 fa 0,45. Uno c'ha la macchinetta, lo trova subito. Bene, allora 0,45 secondi per arrivare per terra. Adesso chi sta sulla stazione lì, o sulla banchina lì della stazione, supponiamo che guardi il tizio sul treno che fa cadere la pallina. La domanda è: quello che sta sulla stazione misura anche 0,45? Cioè il fatto che il treno sia in movimento rispetto alla stazione cambia le cose? Questa è la domanda. La risposta è che non cambia assolutamente niente. 0,45 trova quello che è sul treno, quello della stazione, se naturalmente l'operazione è un po' difficile, ma supponiamo che si possa fare l'esperimento mentale, quando il treno arriva proprio di davanti all'osservatore sulla stazione, l'osservatore fa partire il cronometro perché il tizio sul treno lascia la pallina, quando vede che la pallina arriva per terra, ci vuole un vagone un po' trasparente, ma supponiamo che sia possibile averlo, quando arriva per terra ferma il cronometro e controlla, quando trova 0,45 anche lui. Cosa vuol dire? Che le leggi della fisica, in questo caso è meccanica, perché quel tempo era prevalentemente meccanica, sono le stesse per tutti i sistemi di riferimento inerziali. Questa è una brutta parola iniziale, ma vuole solamente dire che uno dei due sistemi si muove rispetto all'altro di moto rettilineo uniforme. Siccome dire tutto questo bambardello un po' lunga, preferiscono i fisici dire sistema inerziale, ma vuol dire sistema che si muove di moto rettilineo uniforme rispetto all'altro. E va bene. Andiamo avanti. è collegata, diciamo, anche a qualcos'altro. Cioè la domanda è: se io sono alla stazione, sulla banchina, posso in qualche modo descrivere quello che succede sul treno? Cosa mi serve? Mi servono delle forme di trasformazione, si chiamano forme di trasformazione di Galileo. Solo, non vi dico niente di questo perché è matematica, però ve le mostro soltanto. Sono queste qui a sinistra. Si vede qui la freccia? Ah, sì. Sì. Ecco, sono queste. E con queste formule io posso descrivere dal mio sistema di riferimento quello che vedo in quell'altro. Quello mobile sarebbe quello segnato con gli apici, bene, in questa forma di trasformazione, da queste forme di trasformazione si potrebbe derivare quello che si chiama la composizione delle velocità. Bisognerebbe fare una prendere la prima di quelle relazioni, fare la derivata rispetto al tempo e così si trova qual è la velocità in un sistema rispetto a quell'altro. Ma lasciamo stare questa parte di così di matematica e vediamola invece nella pratica di tutti i giorni, perché questo lo sperimentiamo tutti i giorni, quello che succede. E quello che succede è questo che avevo prima nella slide, questo. Cioè il pallino rosso è un passeggero che cammina sul treno. Supponiamo che la sua velocità sia 5 km all'ora. Il treno va da 50 km all'ora. La domanda è: il passeggero rispetto a chi è sulla stazione, sulla banchina, a quanto si muove? Tutti penseranno, il treno fa 50, il passeggero cammina e fa 5 all'ora, rispetto alla stazione fa 55, sì. Giusto? Sì. Bene, sbagliato, non è vero? Questa è la meccanica di Galileo Galilei, funziona alle basse velocità, è vero, ma relativisticamente bisognerebbe prendere quella che è scritta lì a fianco, questa qua, quella relazione lì, cioè che la U sarebbe la velocità finale, no? È uguale a V, che è quella del treno, più W, che è quella del passeggero. 25 km. Però quella relativistica corretta sarebbe tutta questa roba qua. In pratica il numeratore è uguale a quello che dice Galileo Galilei, ma il denominatore c'è 1 più V per W diviso C al quadrato, C la velocità della luce. E già che siamo su questa, un piccolo commento di tipo matematico: ma se le velocità però del treno e del passeggero sono piccole, cos'è che diventa quella U? Quella UV? Se V e W sono piccoli, il prodotto anche è piccolo. Diviso C quadro, la velocità della luce quadrato, che è una quantità enorme, fa diventare quella frazione praticamente 0, 0 più 1 fa 1, e cosa rimane? V più W, cioè ritorna alla relazione di Galileo Galilei. In poche parole, la formula relativistica diventa di nuovo la relazione di Galileo Galilei alle basse velocità, cioè alle nostre velocità, perché la luce che ha 300.000 km al secondo, raggiungere con una macchina, con un aereo, anche con un razzo, una velocità del genere logicamente non è possibile. Quindi, diciamo, per tutto quello che può capitare a noi, continua a valere la legge di composizione di velocità di Galileo, che è quella di sinistra. Ma qui, per colpa di U uguale di W, nascerà un grandissimo problema un po' più avanti, ed è per quello che poi c'è bisogno di introdurre una teoria nuova, che è la teoria della relatività stretta. Ecco, adesso siamo arrivati al clou. Non vi spaventate di questa roba che state vedendo adesso. Su Guido ne abbiamo parlato più di una volta. Dunque, adesso devo fare un salto, siamo nel 1600. Qui siamo arrivati già alla fine dell'Ottocento, ma cosa è successo in mezzo? In mezzo sono successe tante cose, ma ce ne interessa una in particolare: che cosa ha fatto l'elettricità, che cosa ha fatto il magnetismo. Sono due campi di studio della fisica che sembrava che fossero separati l'uno dall'altro. Fino al 1820 si pensava così, perché le cariche elettriche, sì, è vero, carica più attiva, carica meno, e questo succede anche col magnetismo, un polo positivo tira un polo negativo, però se io prendo un magnete, lo spezzo in due, polo nord, polo sud, me li ritrovo di nuovo anche sull'altro magnete, ho quattro poli, polo nord, polo sud, polo nord, polo sud. Questo non succede con le cariche elettriche, quindi c'erano delle somiglianze, anche delle cose chiamiamole di diversità, ma tutto sommato si pensava che i due filoni andassero avanti per conto loro. Bene, nel 1820 un fisico danese di nome Ørsted sta facendo un esperimento su un tavolo come questo, aveva dei fili e voleva misurare la resistività di questi conduttori, aveva filo di rame, di argento, di oro, vari tipi, vari metalli, e un po' più avanti sul tavolo aveva lì una bussola, chissà perché era rimasta lì nell'esperienza precedente. Bene, e cosa si accorge? Ogni volta che alimentava il circuito, faceva passare la corrente elettrica nel suo filo, bello lungo, un bel metro di filo sul tavolo, tac, l'ago della bussola si muoveva, e proprio come mai? Si spegneva e l'ago della bussola tornava a riposo. Due o tre volte questo fatto ha cominciato a dire, ma allora forse c'è un collegamento tra la corrente elettrica e l'ago magnetico della bussola. Infatti è proprio così. Un filo percorso da corrente crea un campo magnetico circostante, la bussola lo vede, lo sente, track, e gira, si muove. Ah, ma allora elettricità e magnetismo non sono così scollegati tra di loro. Perché se un filo percorso da corrente genera un campo magnetico, l'ago della bussola lo vede, sono collegati insieme. Ma poi c'è proprio anche dell'altro, che un campo magnetico, quindi viceversa, fa muovere un filo percorso da corrente. Ah, e poi le cose vanno avanti, quindi i collegamenti aumentano, Faraday, Ampere, eccetera, vengono poi tutta una serie di leggi, e si arriva alla fine dell'Ottocento con una, posso dire, una sintesi delle due teorie, elettricità e magnetismo, si chiama elettromagnetismo. Chi l'ha fatta? Maxwell. Maxwell scopre che si può sintetizzare tutto quello che si era scoperto di elettricità e di magnetismo in quattro equazioni. Quelle valgono solamente nel vuoto, altrimenti servirebbero un po' di più. Ma l'idea è che il magnetismo e l'elettricità alla fine sono due aspetti diversi di un'unica realtà. Quattro equazioni, bene. Non ve le leggo tutte, state tranquilli, però vi leggo solamente la prima per capire che razza di ricette sono. La prima direbbe questo: il flusso del campo elettrico E, che è un campo elettrico, attraverso la superficie S è uguale alla carica contenuta nella superficie chiusa diviso la costante dielettrica Y0, quella lì che è scritto di sotto. Sì, questa è la prima equazione, le altre ve le risparmio, ma quello che ci interessa non sono tutto quello che è scritto in quelle formule, ma Y0, mu con 0, Y0. La prima e la quarta equazione, perché qua sotto scritto come si fa a ricavare Y0, mu0, viene da questa relazione qua, la si gira un po' con un po' di algebra e vengono fuori queste due altre relazioni. Bene, cosa si scopre? Che per trovare Y0 mi serve la velocità dell'indice C. Entra un quadrato, ma la devo conoscere quant'è. Per calcolare mu0 mi serve ancora C, C quadri. Bene, a questo punto torno, questo dobbiamo tenerlo a mente. Supponiamo che uno stia facendo sul treno un esperimento di elettrologia e gli serve calcolare quel flusso di flusso di cosa ha bisogno di Y0, giusto? E adesso torno un attimo al treno di prima. Ecco, Allora ci sono due osservatori, uno è la stazione e l'altro è sul treno. Quello sul treno sta facendo un esperimento di elettrologia. Deve calcolarsi con la formula che abbiamo visto prima. La domanda è: entra C, velocità della luce, ma cosa devo prendere per C? La velocità della luce rispetto al treno? O che cosa? Beh, certo, lui è sul treno e prende la velocità della luce rispetto al treno, 300.000 km al secondo. Quello che guarda la stazione fa lo stesso ragionamento. Galileo Galilei ha detto che tutti i sistemi di riferimento sono equivalenti. Allora quello che vede il tizio alla stazione deve corrispondere a quello che vede l'osservatore sul treno. Non possono cambiare i risultati. Bene, quello che si trova alla stazione dice: va bene, devo calcolare epsilon 0, devo usare quella formula che abbiamo visto prima, che cosa devo prendere per C, cioè per la velocità della luce. Anche lui sta sfruttando una velocità della luce della voce. I campi elettromagnetici sono la nostra salvezza. Quindi anche l'osservatore dalla stazione deve decidere che cosa deve prendere per epsilon 0, per prima. Come la calcola? Deve usare C, ma per usare C guarda l'esperimento sul treno e dice: ma un momento, il punto con l'esperimento la luce viaggia 300.000 km al secondo rispetto al treno, ma il treno sta andando, però allora deve prendere per C, come prima abbiamo detto, la persona che camminava 5 km più 55, allora devo cambiare il valore di C. Cioè, in poche parole, se io guardo dalla stazione devo prendere per C un valore maggiore, quindi diverso da quello che usa l'osservatore sul treno. Vabbè, ma allora i risultati anche sono diversi. Cioè, la formula che abbiamo visto prima, quella di Maxwell, qui questo flusso che lui deve calcolare perché sta facendo l'esperimento, gli serve epsilon 0, ma allora quello che guarda dalla stazione trova un valore per il flusso, quello che guarda, che fa l'esperimento sul treno, ne trova un altro, perché prendono due valori diversi di velocità della luce. Ma allora, cavolo, lei ha sbagliato. E lei ha detto che in tutti i sistemi di riferimento iniziali le leggi della fisica sono uguali. Adesso non è vero. A questo punto i fisici della fine del 800, 1800, sono trovati di fronte a un grossissimo problema. Non dico che non dormissero più la notte, però non sapevano come venire fuori da questa cosa. Chi ci pensa? Einstein. E Einstein che cosa dice? Ma qui le cose sono due: o ha sbagliato Galileo Galilei, oppure la luce non segue la legge di composizione delle velocità. Cioè, per la luce non è vero che U uguale di più W. Una di queste due non funziona. E che cosa decide? Einstein, come sempre, fa le scelte più semplici. Pensano che Einstein sia uno scienziato, fa cose difficili, chissà che cosa. Sì, dopo diventano difficili, ma i punti di partenza sono sempre molto semplici. Einstein dice: no, non è possibile, la natura non si può comportare diversamente, perché adesso sono in elettromagnetismo, prima sono in meccanica, perché non deve più valere il principio di relatività generale, e accetta che sia quello il cardine di tutta la storia e tiene quello per buono, e dice: forse non funziona la legge di composizione della velocità. Guardate che ci vuole un bel coraggio, perché io non so se io sono in treno e vado a 5 all'ora, il treno va a 50, ma chiaro che io rispetto alla stazione vado a 55. Lui ha messo in dubbio questo. Lui ha detto: ma forse non funziona così per la luce. Ecco, per la luce, perché ma sennò... No, ma anche per le altre cose. Anche... Sì, perché c'è la formula che... Sì, sì, quella che ho messo a fianco e quella è relativista. Quindi scusami, solo una cosa, per quello che guarda la banchina, se sul treno, poi vediamo la luce adesso, ma il treno va a 50, io cammino a 5, per quello che guarda lì, però vado a 55 o no? No. Ah no? tu vai un po' di meno. Ah, vabbè, però più di 50 vado però. Cioè c'è la somma, si fa dei due con quella correzione. Sì, ho capito, va bene. Quando le velocità sono piccole, però sì, la correzione è piccola. Però c'è la somma, si fa, mentre non si farà con la luce, certo, ecco. Certo. Va bene, allora Einstein si trova di fronte a questo problema. E che cosa fa? Dice, va bene, io adesso cerco di costruire una teoria in cui assumo per postulato, cioè dico che è così, senza poterlo dimostrare, perché non ho i mezzi per farlo, che ha ragione Galileo Galilei, quindi le leggi della meccanica sono uguali in tutti i sistemi di riferimento iniziali. Secondo postulato, la velocità della luce non cambia quando si passa da un sistema di riferimento all'altro. Ah, ma se prendo, perché lo fa? Perché lui vuole che queste leggi qui, queste equazioni, siano ancora valide, ma che se C non cambia, se C è passando, guardando dalla stazione o guardando dal treno, se C è sempre lui, allora le leggi sono uguali. I due osservatori concludono trovando lo stesso risultato quando calcolano il flusso del campo elettrico, diciamo. E lui questo vuole, lui vuole mantenere Einstein la validità del principio di relatività di Galileo Galilei. Va bene, quindi deve trovare una strada per cambiare anche le trasformazioni di Galileo, perché io vi ho detto prima che quella formula U uguale B più W viene da queste equazioni qui, si prende la prima, si fa una derivata rispetto al tempo e si ottiene quella relazione che abbiamo visto. E lui dice, ma forse c'è qui qualcosa che non funziona, la luce non rispetta questa roba qua. La luce, indipendentemente dalla velocità della sorgente dell'osservatore, viaggia sempre alla stessa velocità. Bene, e questo lo pone come postulato. Poi guarda l'ultima di queste, T' uguale a T, e mette in dubbio che il problema stia là. Il tempo, che i due ometti sono due osservatori, uno è il movimento, viaggia a velocità costante, e l'altro invece è fermo, cioè fermo, è chiaro che è molto relativo, ma mettiamo in questi termini che si capisce forse meglio. E l'orologio di quello che si muove, pensa Einstein, non batte il tempo come l'orologio di quello che sta fermo. Ma questa è una cosa importante che lui pensa, bisogna essere un po' matti per pensare una cosa così. Qualcuno dice, ma sì, Einstein ha lavorato all'ufficio brevetti di Berna e ci sono passati davanti un sacco di meccanismi, anche orologi, e forse per quello è stato un po' influenzato e gli è venuto in mente questa cosa qui. Può darsi che sia vero, forse è anche vero questo, non si sa, ma lui mette in dubbio che i due tempi, i due orologi battano allo stesso tempo. Ma questo vuol dire che se l'omino che è a sinistra, supponiamo che all'inizio i due osservatori abbiano sincronizzato gli orologi, carte di orologi, in partenza devono segnare allo stesso tempo. Bene, se dopo un'ora, supponiamo che loro alle 12 hanno regolato gli orologi, poi quell'altro si mette in movimento, se ne va per conto suo, quando l'orologio di quello che è in moto segna le 2, l'orologio di quello che è fermo segna le 2:10. Come è possibile? Ma lui mette in dubbio proprio che possa succedere qualcosa del genere. Cioè, la velocità di un sistema di riferimento rispetto all'altro modifica il ritmo degli orologi. Si vede subito, si dice, ma scusa, allora non funzionerebbero i treni, gli aerei. Ma un momento, se la velocità con cui ci muoviamo è bassa, questo effetto è piccolo, non si vede, c'è, ma non lo possiamo vedere perché è troppo piccolo. Ma se cominciamo ad andare a 0,5C, mezza velocità della luce, allora le cose cambiano. Mezza velocità della luce però purtroppo vorrebbe dire 150.000 km al secondo, non all'ora, al secondo. Però noi non le raggiungiamo andando con la macchina, o in treno, ma basta andare a Ginevra, all'NHC, sul protone di Ginevra, lì i protoni camminano, si fanno una circonferenza di 27 km a 100 metri di profondità per non avere disturbi del fondo radioattivo, e si lanciano due fasci di protoni quasi alla velocità della luce, uno contro l'altro, si fanno scontrare per avere informazioni sulle reazioni nucleari in certe particolari condizioni. Bene, lì si deve tener conto della relatività di Einstein, per forza. A quella velocità si vede che gli orologi non battono più il tempo ugualmente. Se noi andiamo a 50 all'ora, a 100 all'ora, in autostrada o dove ci muoviamo, l'effetto c'è, ma se la differenza è un millesimo di nanosecondo, che cosa ce ne importa? Che l'orologio mio e quello del mio cognato che vedo lì va il tempo con un ritardo di un millesimo di nanosecondo. Un nanosecondo è un millesimo di secondo, è tanto per dirci, un millesimo di nanosecondo, va bene. Però l'effetto c'è e bisogna tenerne conto quando ci si trova in condizioni. Quindi quando si va, la velocità rallenta il tempo, ha un effetto di contrazione. Sì. Cioè io osservatore da fuori valuto il tempo di chi si muove, io lo valuto più lungo, ma chi si muove rispetto a me ha un tempo più corto. Quindi correndo tanto in macchina si rischia di ammazzarsi, però si ha la soddisfazione di guadagnare qualche nanosecondo di vita. È giusto? Ho qualche nanosecondo in più a disposizione se non muore. È vero. Vabbè. Ok, allora a questo punto. La simultanea. Ero arrivato alla conclusione che Einstein mette in discussione che i due orologi possano battere il tempo alla stessa maniera. E dice, ma che cosa vuol dire che due orologi non battono il tempo alla stessa maniera? Che quando per esempio sul mio sono le 5, cosa vuol dire? Che la lancetta delle ore va su 5, quella dei minuti va su 12, ma se le 5 deve segnarlo anche quell'altro che si sta muovendo, anche nel suo orologio la lancetta delle 5 va la lancetta delle ore va su 5, e quella dei minuti verso le 12, cioè i due eventi, chiamiamoli così, devono essere simultanei, allora seguono la stessa ora. E Einstein dice, ma forse non c'è sempre la simultaneità. Noi crediamo che quando io dico qualcuno va bene, ci vediamo alle 8 questa sera, e io faccio le 8 e neanche sull'orologio fa le 8, magari lui è andato in treno, chissà, per un po' prima, che ci troviamo proprio alle 8, ma Einstein dice forse non è vero, l'orologio che segna il tempo, il mio, non è detto che batta il tempo come quell'altro che si sta muovendo in moto rettilineo uniforme, attenzione che qui non tratta in relatività speciale moti accelerati, ma parla solo di sistemi in moto rettilineo uniforme. Bene, allora mette in dubbio la simultaneità e si inventa questo esperimento che vedete nella slide. C'è un treno che passa davanti a una stazione, il pallino rosso è un osservatore che sta sul treno, la V è la velocità costante del treno e poi c'è il tizio segnato in blu, ho messo S come stazione, sinistra e destra ci sono due flash al momento spenti e l'osservatore S è proprio messo a metà strada tra i due flash, da questa distanza qui è esattamente uguale a questa, se la scelta così, no? Bene, e Einstein dice, passa il treno, quando l'osservatore rosso è davanti a quello blu con un telecomando, per esempio, aziona i due flash, il segnale avvia contemporaneamente sinistra e destra perché le distanze sono uguali, i due flash si accendono. Siccome la luce impiega lo stesso tempo ad arrivare qua, da sinistra, come anche da destra, perché le distanze sono uguali, l'osservatore S dice sì, i due flash si sono accesi simultaneamente. E fino a qua tutto chiaro. Il treno però adesso consideriamo cosa dice l'altro. Treno in transito, quando l'osservatore rosso di Torino si trova di fronte, l'altro fa azione flash, ma cosa vede? Lui sta andando a sinistra, e se va a sinistra va verso il flash di sinistra. Allora la luce impiega meno tempo ad arrivare qua, che quello di sinistra, il flash, che non quello di destra a raggiungere il treno che sta scappando. Allora non c'è più la sincronicità. I due osservatori concludono dicendo, quello marcato in blu dice c'è simultaneità nell'accensione, quello lì marcato rosso dice io ho visto prima quello di sinistra e dopo quello di destra. A questo punto Einstein ha trovato già, come posso dire, un appiglio molto importante per criticare l'assolutezza del tempo. Allora lui dice, ma vuol dire che il tempo non è assoluto, quello che misura uno, perché abbiamo detto la coincidenza del lancetto prima dell'orologio, il tempo che misura un osservatore non è detto che sia uguale al tempo che misura quell'altro se uno si muove rispetto a uno. Ecco, questo è il punto critico, questo, no? Ok, quindi una volta che ha scoperto questo va avanti e fa una cosa del è il punto cruciale, così come vedete c'è un po' di matematica qua dentro. Perché io ho detto all'inizio che senza matematica non si può fare fisica. Allora Einstein qui dice, ma adesso penso ad un altro esperimento mentale. Quella specie di cabina di che ho disegnato in alto potrebbe essere un'astronave, perché lo fece in testa. Quell'omino azzurro, quello è l'astronauta, l'ho fatto un po' quadrato perché di solito gli astronauti hanno delle tute spaziali un po' particolari. Quell'altro, povero diavolo, invece è vestito come noi, è all'esterno e sta a guardare quello che succede. Bene, Einstein si chiede, prendo un raggio di luce, cioè quel punto A lì è una sorgente, c'è una lampadina, diciamo così. Quando quella lampadina si accende, manda il raggio di luce fino in alto, colpisce il soffitto, supponiamo che ci sia uno specchio, il raggio ritorna indietro e ritorna nel punto A. La domanda che si fa Einstein è questa: cosa misura come intervallo di tempo l'astronauta, quello lì, cosa misura chi guarda da fuori? Questa domanda si fa, guardate che questo è il centro di tutta la relatività speciale. Se non ho capito cosa viene fuori qui sotto, ha capito il 50% della teoria della relatività speciale. Bene. Allora l'astronauta, quando parte del raggio, naturalmente è difficile che un raggio di luce su un percorso, cosa sarà, non so, un metro, 2 metri, non si riesce. Se noi facessimo adesso l'esperimento, oggigiorno si può fare, perché oggi si arriva a valutare fino al millesimo di nanosecondo, è un tempo molto piccolo, ma ai tempi di Einstein, cioè nel 1900, non era possibile. Ma questo è un esperimento mentale, quindi non è importante se si può misurare in pratica oppure no, però lo si può pensare. Allora il raggio, dicevo, fa su e giù. L'astronauta nella sua cabina si sposta verso destra, una velocità diciamo anche alta deve essere, no? Perché da dentro si possa vedere. E che cosa misura? Misura solo la salita e la discesa. Ma quando il raggio sale fino su, l'astronave sarà arrivata qua e il raggio sarà in B. Poi l'astronave va avanti e il raggio scende da lì nel punto C. Non guardate le diagonali, non c'entrano niente al momento. L'astronauta vede solo il raggio salire e scendere e misura un tempo. Bene. Cosa dice l'osservatore esterno? L'osservatore esterno non vede il raggio che fa così. Lui vede il raggio che parte da qui, ma l'astronave si sposta, lo vede andare in diagonale fino a B. E quando poi dopo l'astronave si sposta da qui a qui, vede il raggio che fa questo percorso, non lo vede scendere così, lo vede scendere in diagonale. E adesso tutti quanti hanno già capito, penso, che il percorso che fa il raggio visto da fuori è molto più lungo del saliscendi che deve valutare l'astronauta. questo vuol dire che gli osservatori misurano per uno stesso fenomeno, perché la salita e la discesa di un raggio luminoso su un percorso fissato valutano tempi diversi. Quello che sta fuori dice che è durato di più, perché lui misura questo percorso qui, che sull'astronave invece dice che il tempo impiegato per il saliscente è molto più corto. Si può anche dire, se volete, che il tempo e l'orologio dell'osservatore esterno corre più velocemente, perché se misura un intervallo più lungo, questa è la lancetta dei secondi, facciamo, quello che è sopra sull'astronave arriva fino a qua, quello che invece è fuori un tempo più lungo, allora va più veloce la lancetta. Quindi il tempo visto da fuori corre più velocemente. Questo giustificherebbe anche il famoso paradosso del cervello, ma lasciamo stare, perché quindi per l'ometto che sta fuori ci vuole più tempo perché la luce vada su e giù dentro la cabina, cioè certo, la sua misurazione, certo. Sì. Ma è sbagliato dire, ma lui vede anche un percorso più lungo della luce. E quello è il motivo, ecco, per cui misura un tempo più lungo. È per questo che... Ma misura un tempo più lungo di uno stesso fenomeno. E questo è una delle slide che si può capire, non le altre, ma molto. Ma questo nella relazione si capisce un po' Einstein su questo. Questo ecco, l'hai detto, che fatto. Non so se questa che è faticoso, però è qui, cioè quindi è l'ometto che ha, che si sposta con la cabina, arriva fin qui, e per lui il movimento è su e giù ed è quel tratto lì di luce, è corto. Per chi guarda fuori la luce fa, piega fino sopra B e poi ritorna giù. Quindi è più lunga, la luce va sempre alla stessa velocità, lui misura un tempo maggiore. Perché Einstein ha postulato all'inizio, la velocità della luce, io assumo che sia costante rispetto alla velocità dell'osservatore, rispetto alla velocità dell'intervento della sorgente. La luce va sempre nella stessa velocità. Allora, sotto questa ipotesi, chiaro, i tempi sono diversi. Uno stesso fenomeno, quindi tempi diversi. Ma adesso non si accontenta qui Einstein. Fa ancora un calcoletto, perché lui... Non gli piaceva tanto la matematica, dico la verità, e dopo vi dirò anche nella relatività generale se ci arriviamo. Non lo so, però conosceva l'algebra tranquillamente. E allora cosa dice? Ma proviamo a vedere di calcolare, di trovare una relazione tra il tempo che misura chi è fuori e il tempo che misura chi è dentro. E qui basta applicare il teorema di Pitagora, non occorre prendere tutta questa roba qua. Basta prendere la metà, no? Perché sono uguali i triangoli, e allora basta scrivere che il quadrato sull'ipotenusa è uguale alla somma dei quadrati dei due cateti, prendendo non il metro e le lunghezze, scrivendo C per T, una volta C per T, una volta C per T primo. Possiamo anche vedere quali sono, come deve scrivere i segmenti. Deve prendere da qui a lì, quello è quello che vede l'astronauta. Allora C per T al quadrato, perché T è il tempo, abbiamo detto, del sistema che è sopra, quello con l'indice, con l'apice prima, è il tempo che misura chi è fuori. Allora, CT al quadrato più questo pezzo, cos'è quel pezzo? Quello è la strada che vede chi è fuori, allora deve prendere CT primo al quadrato, uguale a quel pezzo lì. Cos'è quel pezzo? Quello che vede chi è fuori. Questo pezzo, no, ho sbagliato, prima questo pezzo qui, dipende dalla velocità della strada, deve scrivere V per questo pezzo, V di primo quadrato, cioè tutti e due al quadrato, e quest'altro invece sarà C primo, C per T primo quadro. Scrive questa relazione, fa un po' di passaggi, cosa trova? Quello che vedete scritto lì, T' uguale a gamma T. Ho scritto gamma, di solito si usa questa lettera, al posto di tutta questa roba qua, 1 fratto radice di 1 meno di 2 su C2, ma lui trova questo, no? Ma più elegantemente, più brevemente si scrive T' uguale a gamma tra T. E cosa ha trovato? Non è che con questa relazione ha fatto un'aggiunta di poco conto, non lo so. No, lui ha trovato esattamente di quanto aumenta il tempo se guardo da fuori e conosco la velocità dell'astronave. Non è che ha trovato poco, ha trovato la relazione esatta tra il tempo che misura chi è fuori e il tempo che misura chi è sull'astronave. T' uguale a gamma per T, con gamma uguale a questa roba qua. Piccolo commento, ormai che ci siamo arrivati fino in fondo su questo commento, a questa frazione, diciamo. Cosa succede se la velocità dell'astronave è bassa rispetto alla velocità della luce? Bene, prendiamo questa frazione. Se V è piccola rispetto a C, questo rapporto ha un denominatore molto grande. Una frazione con un denominatore molto grande va a zero, circa. Allora, qui rimane 1, radice di 1 fa 1, 1 diviso 1 fa 1, gamma uguale 1. Ah, se gamma uguale 1, di primo vale a T. Allora non c'è nessuna differenza, o pochissima, se la velocità di chi si muove, della astronave, è piccola rispetto a quella della luce. Ancora una volta ritorniamo allora nella meccanica classica, a partire dalla relatività speciale. Per le piccole velocità non cambia niente, se le velocità sono grandi le differenze si vedono. Da questo grafico si capisce che le differenze cominciano a sentirsi dopo 0,5C, almeno 0,6, 0,8, 0,9 e poi va a infinito. Se ci avviciniamo, o addirittura facciamo diventare V uguale a 5. Va bene. Se proprio volete l'ultimo commento sulla relatività speciale. Se V diventa uguale a 5, che anche quello è interessante, è vero, quando la velocità è bassa, quello che succede l'abbiamo visto adesso. Ma se la velocità diventa proprio uguale a quella della luce, allora se diventa uguale a quella della luce, di primo vale gamma T, è più facile se la giriamo. Se viviamo T uguale a T primo su gamma, è la stessa cosa, dove T è il tempo dell'astronauta. Sì. Bene, allora se V è uguale a C, V su C fa 1, 1 al quadrato fa 1, 1 meno 1 fa 0, 1 diviso 0 fa infinito. T uguale a T primo su gamma, se gamma è infinito, un denominatore perfettamente grande manda a zero tutta la frazione, vuol dire che T uguale a zero. Ah, l'astronauta misura il tempo zero, il suo tempo si ferma. Se uno viaggia alla velocità della luce, il suo orologio non cammina più, si ferma. Questo dice Einstein, nessuno l'ha ancora provato in pratica, perché la velocità della luce è un po' difficile da raggiungere, però la teoria dice questo. Va bene. Questo lo sappiamo perché sono 19:30, siamo 3. Sì, lo sappiamo, lei non si preoccupa, ma lo sappiamo. Adesso volevo dire due cose. Con un accenno a Newton, per sì, sì, prima, diciamo, sì. Va bene, allora il discorso sulla realtà speciale, diciamo che sarebbe volete concluso, perché ci limitiamo a quello che abbiamo detto soltanto, ma il grosso, diciamo, il nocciolo della questione l'abbiamo visto. E adesso, perché Einstein non è contento? Perché questo è un lavoro che abbiamo esaminato adesso, del 1905, la realtà speciale. E però lui dice dopo, sì, è vero, io adesso ho trovato una relazione tra i tempi di due osservatori, uno in moto e l'altro fermo, lì però sono sistemi che si muovono di moto e diviene di forma. Ma se i sistemi sono accelerati, questo non l'ha esaminato. Per esempio, un campo gravitazionale, se io questa penna la lascio andare, cade per terra con un moto uniformemente accelerato. Quindi mi si è posto anche questa domanda, potrei studiare i sistemi accelerati, i campi gravitazionali si somigliano un pochino, no? E va bene. E poi restano aperte, cioè questa è una questione che gli è rimasta aperta, cioè non è contento, vuole ancora andare avanti. E poi sono ancora due questioni da vedere, quelle sono collegate con la legge di gravitazione di Newton, che è quella che ho scritto qua, si vede qua sotto, no? Però prima di arrivarci purtroppo. Newton si domanda, qualcuno dice che gli è arrivata una mela staccata da un pianto, gli è arrivato in testa, eccetera. Va bene, si dicono tante cose, può darsi anche che sia successo quello, ma Newton si fa questa domanda: ma se io ho una mela, altezza ad esempio un metro da terra, la lascio andare per terra, questa cade di moto uniformemente accelerato, pesa, la terra la tira giù, posso calcolarmi a questo peso? Sì, conosce la formula P uguale a m per g, sì, conoscono tutti, la seconda legge della dinamica, no? Fai i calcoli, 9,8 Newton. E scusami, qui c'era anche Galilei, fin qui c'era anche Galilei o no? Fin qui sto... Galilei l'abbiamo un po' abbandonato. No, no, ma dico, ma fino a qui ci arriva anche Galilei o Galilei... Non conosceva la relazione algebrica P uguale mg, però sapeva che i corpi cadendo acceleravano. Va bene, non conosceva. Vabbè. Volevo solo capire se fin qui era Galilei... Sì, era... sì, praticamente. Va bene. Anche e Newton si domanda, ma va bene, la mela cade per terra, mi posso calcolare la forza peso e quella più uguale 9,8. Ma se io vado fuori dalla Terra e considero come si tirano due masse nell'universo, nello spazio, così per esempio, lui sapeva che si attirano, lo sapevano da un pezzo che i pianeti girano attorno al Sole, il Sole attira i pianeti, la Luna attira la Terra, attira la Luna, eccetera, eccetera. E Newton dice, ma che non sia magari la stessa forza? Viene in mente, no? Era difficile, voi adesso pensate davvero allora che cos'è che ha fatto di strano? Ha fatto di strano che prima comandava, diciamo così, il pensiero aristotelico e anche erano importanti le sacre scritture. Fuori dalla Terra, nei cieli, comandano gli dei, le divinità, la perfezione, tutto funziona perfettamente, sulla Terra i poveri mortali vivono fino a che ce la fanno campare, tutto è perfetto, non fanno le cose come si deve, sono due mondi completamente diversi. E guai a chi poteva mettere in dubbio che anche nei cieli le leggi in gioco erano le stesse di quelle che si trovavano sulla Terra. Ecco, la perfezione, lo mettono insieme alla perfezione, potere costituito, cioè scrittura, eccetera, non ci vedevano tanto bene da questo punto di vista. E poi è andato in moto, non gli importava niente di quello che dicevano i cultori di Aristotele con le sacre scritture, e pensa se non possa fare un controllo per vedere se la forza che si esercita tra due masse nell'universo sia la stessa che si esercita tra una mela e la Terra, per esempio. Va bene, allora dice, questo lo diciamo noi, perché lui questa formula F uguale K M grande M piccolo su R quadro, lui la ricava matematicamente questa. Io nel libro l'ho fatta la dimostrazione, però chiaramente qua non possiamo perdere tempo ad arrivarci matematicamente. Allora noi sfruttiamo quello che lui ha già trovato. Supponiamo che questa relazione sia buona, allora vuol dire che due masse, per una potrebbe essere la M grande la Terra, la M piccolo la Luna, o qualsiasi altro corpo, ubbidiscono a questa legge qua. Due masse si attirano con una forza direttamente proporzionale alle masse, inversamente proporzionale al quadrato della loro distanza. Bene. E allora dice, non dici, questo diciamo noi, diciamo grazie a Newton che vi ha trovato questa legge. E adesso noi possiamo fare una verifica a posteriori che la legge è buona, no? Questa legge qui è buona, e confrontiamo se questa forza è ricavata così non sia per caso a quella ricavata in quell'altro modo. Noi facciamo dopo, a posteriori, controllo. Newton ci ha impiegato un po' di tempo col suo cervello ad arrivare a questa relazione qua, ma noi adesso possiamo fare un confronto e vedere se per caso questa forza trovata così sia la stessa con cui la Terra tira la mela. Allora, se al posto della massa M metto la massa della Terra, al posto della massa del mio piccolo ci metto quello della media, adesso in questo caso la media è qui, no? Sì. L'altezza qui la mettiamo, non è importante, perché il raggio terrestre è 6370 km, che sia un metro su, un metro giù, su 6370 km, capite che conta per poco, no? I risultati alla fine sono sempre praticamente uguali, c'è troppo poca differenza. E anche qua l'altezza conta poco, perché si suppone che G per piccoli spostamenti sia costante, non cambi. Se io vado su di 3-4 km, G cambia un pochettino perché diminuisce quella quota, no? Ma se, no, se resto così all'altezza dell'ordine del metro, allora praticamente posso ritenere costante l'accelerazione di gravità. Va bene, allora di qua ho detto che era 1,98, qui faccio i calcoli di nuovo al posto di K, che è la costante di gravitazione universale, si mette su valore 66,11, faccio un po' di conti, cosa trovo? 9,8. Allora vuol dire che la legge che sto usando qui per vedere la mela come è tirata dalla Terra è l'altra legge che uso per vedere come si attirano due masse qualunque nell'universo. In questo caso ho preso la Terra e la mela, ma poteva essere la Terra e la Luna, la Terra e Marte, due masse qualunque, no? Ho preso la mela perché volevo confrontarlo con quello e trovo come valore lo stesso, 9,8 ancora. Ma allora forse non c'è nessuna differenza, la forza peso e la forza con cui la Terra tira la Luna, il Sole tira la Terra, eccetera, eccetera, è la stessa, è la stessa. Tipo di cose, è una domanda proprio che vedete. Allora, per spiegare perché la Luna non ci casca dentro addosso alla Terra, come bravo. Bene. Non solo perché ho visto. Sì. Giusto. Allora, la Luna ha una velocità tangenziale, cioè lei gira intorno alla Terra. Se fosse ferma, sarebbe come la mela, ci andrebbe a finire addosso in 448, impiegheremo un po' di tempo perché sono sempre 380.000 km, però prima o poi si arriverebbe addosso, cade come cade una mela, ma ha una velocità periferica, tangenziale. Allora lei vorrebbe cadere, però vuole anche andare avanti. Qual è il risultato? Che c'è dentro la Terra. Se la mela, nel momento in cui si stacca dalla pianta, si prendesse una botta, bella botta, sapete quanto deve essere? 28.000 km. Se noi quando la mela si stacca dalla pianta gli dessimo un colpo per farle avere una velocità periferica tangenziale dal terreno di 28.000 km all'ora, ecco la mela non sapeva perché non vede in orbita intorno alla Terra come fa la Luna, se si identica cosa. Quindi in poche parole Newton ha trovato con la gravitazione universale una cosa molto importante: non c'è nessuna differenza tra il peso dei corpi e come le masse si attirano nell'universo, alla faccia degli dèi. Tutto funziona alla stessa maniera e siamo tutta una famiglia, non ci sono gli dèi e gli uomini cattivelli e mortali. Tu intendete che dico io sono destinato a te. Forse ci sono, ma non lo sappiamo. Però voglio dire, le leggi della natura che valgono sulla Terra valgono anche nell'universo, sono le stesse. Non solo, ma più avanti, non nei tempi di Newton, cioè nel 1600, di Galilei, uno è morto e quell'altro è nato di questi due. Galilei muore nel 1642, in quell'anno nasce Newton, ci danno proprio il passaggio. Questa fede, no? Se uno adesso. Ora noi abbiamo, sono 19:39, io credo, sarebbe da fare in 6-7 minuti, c'è la differenza, se sì, ce la fai, della relatività generale, sì, che. La dico male da non professore di fisica, che per Einstein questo, lui fa il meccanismo come hai spiegato, per quell'altro lo spazio si piega, si contorce, si distorce, e insieme alla distorsione di questo, forse un accennino, perché di più credo che alle 8 qui dobbiamo andare via per forza, giusto? Alle 8 ci chiudono. 10 minuti. Sì, no, per me io. No. Questo è. Stiamo agli ordini superiori. Va bene, allora questo. No, magari. Questo serviva solo per arrivare a questa legge qui, F uguale K. Questa è importante, che è la legge di gravitazione universale, adesso è spiegata. Universale. Che vale sulla Terra e anche fuori, e perché la Terra e la Luna non ci viene dentro, adesso perché non ha detto i lavori come a me. Allora praticamente Einstein qui guarda questa legge. Attenzione, questo è l'ultimo sforzo, perché la meccanica quantistica si ti... ti capisco. No, ma capisco anche loro. Sì. Guarda questa legge e dice qui c'è qualcosa che non funziona. Perché? Prima di tutto due masse sono nello spazio, sono nel vuoto, ma nel vuoto non c'è niente in mezzo, com'è possibile che una massa tiri quell'altra? Sono delle magie queste, come mai? Non c'è niente in mezzo, come fa una massa a tirare un'altra? Si domanda questo, no? Infatti non era solo lui, anche gli altri fisici dicevano questo è un piccolo problema. Secondo, la matematica di nuovo entra in gioco. Lui dice, Newton ha scritto questa roba qua, ma scusa, se io questo R lo aumento di un pochettino, cioè vuol dire che se io questa massa qui, non prendiamo la massa della mela che è vicino alla Terra, prendiamo Terra e Sole. Sì. La luce ci impiega 8 minuti circa da arrivare da Sole, sono 150 milioni di chilometri. Se il Sole a un certo punto ci spostasse un po', non succede, ma supponiamo che questo venga, si allontanasse un po'. Noi, qui, la nostra orbita, che gira, la Terra gira attorno al Sole, la nostra orbita cambierebbe immediatamente, perché cambierebbe R. Appena R cambia, questa variazione la sente subito la F. F cambia immediatamente. Ma cosa vuol dire immediatamente? Non ha detto Einstein, l'abbiamo visto prima, che i segnali, anche se non mi ricordo se ho detto, non possono superare mai la velocità della luce. La velocità della luce è una velocità limite, non si può correre più veloce che 300.000 km al secondo. Ma scusa, se il Sole si sposta, immediatamente la Terra risente di questo effetto, perché c'è scritto qui, è una formula che si vede da qua, nella matematica che lo dice. Ma allora c'è l'istantaneità qua. Appena si sposta una massa, quell'altra sente subito che è cambiata la forza. Ma allora questo effetto si è propagato più velocemente che la luce, perché istantaneo è di meno di 8 minuti il tempo che ci vuole un segnale per fare terra solo. E quindi dice qui questa, qualcosa non funziona. Va bene, qualcosa non funziona, allora si inventa degli altri esperimenti, ecco questi, quello del, prima quando faceva la relatività speciale andava in treno, utilizzava i treni, adesso invece prende gli ascensori perché funzionano meglio per quello che deve fare lui, e allora dice, se io sono in un ascensore, anzi questo, quei tre esempi là, tra un secondo, supponiamo che noi adesso saliamo in un ascensore e ci portiamo dietro una bilancia pesa persone. Quelle che funzionano, non quelle elettroniche, quelle a molla. Vado sopra, la molla si comprime, c'è un indice che parte e mi segna il peso, la bilancia deve essere tarata, si fa e va bene. Allora, salgo sulla bilancia in un ascensore, schiaccio il bottone e l'ascensore parte. All'inizio l'ascensore prima era fermo, poi si mette in moto. Nella fase di accelerazione dell'ascensore, se io leggo la bilancia, se io prima ero 80 kg da fermo, adesso se leggo di più, 87, 88, dipende dall'accelerazione dell'ascensore, perché il motore dell'ascensore mi spinge il pavimento dell'ascensore addosso e la bilancia e la molla si comprime di più. E l'indice va più avanti, allora leggo un peso maggiore. Quindi mai pesarsi l'ascensore in movimento che ci si rimane male. Hai ragione. Va bene. E naturalmente la lettura rimane sovrastimata fino a che la fase di accelerazione finisce, durerà un paio di secondi, non so. Appena l'ascensore comincia ad andare in su a velocità costante, io ritorno in 80 kg. Quando arrivo al piano, schiacciato il quarto piano, quando arrivo al quarto piano frena il motore, perché chiaro, la cabina si deve fermare, no? Nella fase di frenata in decelerazione, se io guardo la cabina, madonna, si è preso di meno, è forte, perché mi manca il pavimento sotto i piedi, se freno vuol dire che mi scappa il pavimento di sotto, meglio di meno. Allora questo adesso forse l'ha pensato anche Einstein, non so se l'ha pensato così, ma lo diciamo noi. Nel filmino che hanno fatto quello su Sky, la serie, si vede lui che fa questa cosa mentalmente dell'ascensore. Della bilancia dell'ascensore. Si vede lui che fa nel film, poi non so se. Ecco, quindi questo lo diciamo noi, ma immagino che l'abbia pensato anche Einstein. Ah, ma come? Allora le accelerazioni e decelerazioni influiscono sul peso. Cos'è il peso? Campo gravitazionale, no? Allora un campo gravitazionale e un campo accelerato sono collegati tra di loro. Prima idea. Niente male. Poi lui va avanti però, perché Einstein, come siamo noi, no? E Einstein dice, ma un momento, ma se io, questo sarebbe l'ascensore fermo dove c'è la freccia, l'ascensore fermo, se c'è l'ascensore fermo e ho in mano un oggetto qualunque, lo lascio andare, è chiaro che lo va per terra come quando siamo fuori dall'ascensore. Ma adesso lui dice, supponiamo che metterci nello spazio, lontano dalle masse, non c'è niente, siamo solo noi, ascensore, e basta. Ma se io mi faccio tirare in su in una funda da qualcuno, non lo so, è un'esperienza mentale anche questa, ovviamente, no? Con la stessa accelerazione con cui la Terra attira i corpi, cioè con G, in su verso l'alto, io non posso guardare fuori, non ho finestrini, niente, ma io penso di essere sulla Terra, succede tutto uguale. Perché? Perché se io qui ho messo quella pallina in mano, se, beh, non si vede che ho visto questa cosa la mano in giù, ma se la tenesse in mano qui e la lasciasse andare, la pallina dovrebbe stare là, nello spazio, non c'è niente, ma gli arriva addosso probabilmente, perché l'ascensore è accelerato verso l'alto. Beh, non è la stessa cosa. Cioè, essere sulla Terra e vedere la pallina che va giù, o in un ascensore che va verso l'alto con l'accelerazione G uguale a quella di gravità che fa scendere gli oggetti verso il basso. Guarda, io vedo la pallina che va giù, se sono fuori, se sono fermo, ma vedo anche la pallina che va a finire sul pavimento, anche se il movimento è relativo, cioè è il pavimento che sale. Ma io che sono lì non capisco, no? Io penso che sia in un campo gravitazionale, stessa identica cosa. E quindi dice, ancora meglio, i campi gravitazionali e i campi accelerati sono equivalenti, principio di equivalenza. Ma poi fa ancora un altro passo avanti e dice, ma come posso creare un campo gravitazionale con un accelerato? Forse lo posso anche annullare. Se io in un ascensore lo lascio andare giù in libera caduta, se io sono lì dentro, adesso l'omino l'ho disegnato sul peso, solo per far vedere che lui non sente il peso, ma lui dovrebbe stare sul pavimento, perché non è che può salire. Ma in ogni caso, pensiamolo pure appoggiato lì, lui non sente di pesare se è in libera caduta, perché tutto sta andando giù con la stessa accelerazione, la pallina che eventualmente vi ha a fianco, lui stesso, le pareti dell'ascensore, tutto sta cadendo con l'accelerazione 9,8 metri al secondo per ogni secondo che passa. Non si accorge di cadere, non sente di pesare. E quindi arriva alla conclusione, i cambi gravitazionali li posso creare e anche annullare se applico le accelerazioni giuste, no? Lui qui dice, questa idea l'ha avuta nel 1907, ha scritto la lettera speciale, 1907 ha avuto questa idea. In uno scritto suo racconta che questa idea è venuta guardando degli operai che lavoravano. Penso che la conosciate, almeno chi è un po' appassionato di queste cose la chiamano l'esperienza delle bianchine. Perché mi dice, è stata l'idea più grande della mia vita, e gli era suggerita un episodio che lui passava davanti a una casa in cui facevano una ristrutturazione, c'era un'impalcatura di fuori degli imbianchini che lavoravano, e a un certo punto l'imbianchino perde l'equilibrio e vola giù, no? Arriva per terra. Allora Einstein accede alla tua pace, va là, e invece di chiedergli quello che sarebbe un comune mortale, cioè, oh, come va, sei stato male, tutto a posto, sei ferito, no? Lui va lì dal legnettino per terra e gli dice, di, ma quando tu volavi giù dalla falcatura in libera caduta, cosa sentivi? Porco giù, l'altro gli domani, che forte. Il bello è che l'imbianchino, cioè noi gli abbiamo dato questo certo, naso e certo, è morta lì, no? E gli forse risposto. L'imbianchino l'ha riconosciuto, non si sa bene, però anche lo scrive questo episodio. E l'imbianchino lo guarda, ma quando io volavo giù dall'impalcatura, mi dicevo, ah, una meraviglia, non sentivo neanche di pesare. Ma l'Einstein si è accesa la lampadina, non sentivo neanche di pesare. Allora, se un oggetto è in libera caduta, il peso non c'è. Non c'è più. È quello che abbiamo visto nel terzo esempio, no? In questo oggetto di quella caduta, il peso non si sente. E lui dice, questa è stata la più grande idea che ho avuto in tutta la mia vita. Dalla faccia. E da qui è cominciato poi tutto il lavoro sulla relatività generale. Adesso vi dico solo per chiudere, ovviamente, che sì, questo lo salto perché è troppo difficile, questo lo salto, vi faccio vedere questa che così vi spavento ancora un po', questa equazione, ecco, allora Einstein in sostanza capisce che accelerazione e forti cambi gravitazionali sono equivalenti. Si immagina quel disco rotante che vi ho fatto vedere prima, che per caso purtroppo adesso possiamo discutere, applica quello che ha trovato di relatività speciale a un disco che gira, perché un disco che gira ha anche un sistema accelerato, non vuole prendere qualcosa in libera caduta. Chi ha fatto un po' di fisica lo sa che un moto circolare è un moto che viene su un'accelerazione che spinge verso il centro, si chiama accelerazione centripeta, no? Va bene, allora lui da queste osservazioni di relatività speciale, peccato che non le possiamo fare, conclude che la geometria di Euclide non funziona più. Perché? Perché facendo, come dicevo prima, delle prove sul disco rotante, trova che 2π greco r, che è la circonferenza, se uno usa la formula trova un numero, ma se invece va lì col metro a fare la misura, tutto intorno, trova un numero più grande. Come mai? Perché a causa della contrazione delle lunghezze, che noi non abbiamo purtroppo potuto discutere perché non abbiamo fatto in tempo, perché quando abbiamo visto la dilatazione dei tempi, contemporaneamente, poi il passo successivo sarebbe stato andare a vedere che le lunghezze si contraggono se il sistema di riferimento si muove a velocità costante rispetto ad un altro. E allora, mettendo insieme questi due effetti, scopre che non funziona più la geometria di Euclide se ci sono dei cambi accelerati, ma siccome i cambi accelerati sono equivalenti ai cambi gravitazionali, conclude che quando abbiamo a che fare con un campo gravitazionale bisogna abbandonare Euclide e trovare delle altre geometrie, perché gli spazi si incurvano, si distorcono, come dice lui, no? E qui solo per dire quello che lui, se ricordo bene, Newton, lui lascia perdere la forza di gravità per spiegare poi il movimento con la relatività generale della Terra intorno al Sole, cioè che il fatto del meccanismo che c'è una distorsione dello spazio, è giusto o no? Nella relatività generale, mentre con Newton hai dato la spiegazione, non la ripeto, la direi peggio, con Einstein questo movimento, diciamo, di rotazione intorno si realizza, se ho capito, se mi ricordo, la deformazione dello spazio-tempo. Ecco. Non occorre più lui praticamente, ecco, non considera che più la forza. Perché aveva visto, la forza crea dei problemi, no? Nel vuoto, le masse finiscono nel vuoto e poi la istantaneità delle informazioni, niente più può viaggiare. Quindi si deforma lo spazio che è di distanza la tra. La forza la mette in campo. Ecco, la forza la mette via. Tutto con le deformazioni dello spazio-tempo. Volevo solamente dire che per arrivare a questa relazione qui che vedete, sì, che non ricomendo neanche perché non c'è tempo, sì, e quella R è mu nu, G mu nu, P mu nu. Bloom, eccetera, sono dei tensori, sono delle matrici, e quindi fa riferimento a una matematica che lui avrebbe dovuto studiare al Politecnico di Zurigo, ma siccome non gli piaceva tanto la matematica, quando in Corsi, che era il suo professore, faceva lezione degli spazi di Riemann, n dimensioni, eccetera, Einstein usciva e dico che marinasse da scuola. Una volta si diceva fare blanco, o andava a seguire altri corsi, oppure andava a farsi un giro, e poi si era messo d'accordo con l'amico suo che si chiama Grossman. Senti, tu prendi nota che poi mi passi gli appunti, e così avevo fatto. Poi dopo, studiando sugli appunti, non avrà preso 30 lode d'esame, però all'esame finale è passato anche lui. Ma quando si è ritrovato da dove spiegare tutti i suoi discorsi dell'ascensore, del disco rotante, gli spazi incurvati, eccetera, gli sarebbe servita la matematica di Minkowski, che non aveva studiato, ma non la conosceva abbastanza bene per poter andare avanti con i suoi studi di relatività generale. Allora cosa ha fatto? È andato a casa di Grossman, e guarda, amico mio, qui mi devi dare una mano perché non mi ricordo più bene queste cose. Si sono messi a lavorare insieme, lui ha recuperato quei buchi che c'aveva nella matematica in dimensioni, matematica di Riemann, eccetera. Quando ha acquisito dimestichezza sufficiente, è andato avanti e ha tirato fuori questa bella roba. Si chiama equazione di campo e descrive quello che succede. E qui ci sono due membri, sinistra dell'uguale e destra dell'uguale. Destra dell'uguale, diciamo, c'è IM1, il tensore energia, massa energia, ed è quello che provoca la distorsione dello spazio-tempo. A sinistra ci sono altri due tensori, RM1 e quel GM1, il tensore metrico, che dice come si incurva lo spazio-tempo. Un fisico americano, con una bellissima frase, dice cosa significa questa equazione. Che Wheeler, giusto? Che Wheeler, sì. Non so se si dice Wheeler, comunque è lui. No, è lui. Lui dice, le masse dicono allo spazio-tempo come incurvarsi, e lo spazio-tempo dice alla massa come camminare, come muoversi. Bellissimo. Sì. Mette proprio in relazione queste due cose. Va bene. Ci fermiamo qui. Grazie mille. Grazie. Cosa dobbiamo fare, dottoressa, adesso? Niente, io direi che questi argomenti meriterebbero chiaramente molto sì, peccato, tempo. Peccato che sì, singole lezioni. Esatto, è venuta una fantasia. Ci vorrebbero singole lezioni. Dedicare magari qualche pomeriggio più avanti, ci avrà piacere, perché ci sarebbero anche degli argomenti da sentire nuove. Adesso non vorrei aprire discussioni perché dopo non abbiamo più tempo, ma si fa un gran parlare adesso di intelligenza artificiale, quantistica e intelligenza quantistica. Mi piacerebbe capire dov'è il discrimen e soprattutto qual è la zona pericolosa che esce dall'ambito scientifico, perché si continua a dire che la quantistica può influenzare anche le cellule, no? C'è questa influenza di protoni, camera, a seconda di come vengono sparati, di come vengono influenzati, addirittura si può imbrogliare questo tipo di... Io credo con le pazienti queste affermazioni. È un ambito quello della meccanica quantistica e della fisica quantistica, sì, sì, che può affascinare, sì, sì, e sembra anche molto attuale, solo che sta prendendo una deriva pericolosa, con tanti argomenti forse anche utilizzati in malo modo da dei soliti venditori, nell'onda e nella risposta che abbiamo di fornire sempre degli strumenti per la verità e per essere anche scientifici, tra virgolette, mi piacerebbe poi avere altre occasioni. Questa sera va bene. Se non ci sono domande particolari, sì, penso che sì, si può fare qualcosa, ma sono il nostro tempo purtroppo. posso muovere e io non